Ad alta voce. Corrado Guzzanti legge Cuore di cane di Mikhail Afanasievich Bulgakov. Quinta puntata. La sala da pranzo si riempì di uno sgradevole fumo azzurro di sigaro. Il cane si appisolò, appoggiando la testa sulle zampe anteriori. «Il Saint Julien è un vino passabile», udì il cane attraverso il sonno. «Solo che però adesso non se ne trova». Un corale sordo, attutito da soffitti e tappeti, giunse da qualche parte dall'alto e dai lati. Filip Filippovic suonò e arrivò Zina. «Zinuska, che significa?» «Hanno fatto un'altra assemblea generale, Filip Filippovic», rispose Zina. «Un'altra!» esclamò afflitto Filip Filippovic. «Beh, comunque adesso è proprio finito tutto. È andata in malora a casa Kalabukov. Toccherà andarsene, ma mi chiedo dove. Andrà tutto liscio come l'olio. Da principio canti tutte le sere, quindi nelle latrine geleranno i tubi. Poi scoppierà la caldaia per il riscaldamento a vapore e via di questo passo. È spacciata la Kalabukov». «Filip Filippovic si affligge», osservò Zina sorridendo, e portò via una pila di piatti. «E come non affliggersi?» si mise a urlare Filip Filippovic. «Era una di quelle case! Cerchi di capire!» «Lei è troppo pessimista nel considerare le cose», obiettò il bell'azzannato. «Sono molto cambiate ultimamente». «Mio caro, lei mi conosce, non è forse vero? Sono un uomo di fatti, un uomo di osservazioni. Sono un nemico delle ipotesi infondate. E questo è ben risaputo non solo in Russia, ma anche in Europa. Se dico una qualsiasi cosa, significa che alla base c'è un qualche fatto dal quale io faccio la mia deduzione. Ed eccole il suo fatto. L'attaccapanni e il deposito delle calosce della nostra casa». «Interessante. Le calosce sono una stupidaggine. La felicità non sta nelle calosce», pensò il cane, «ma lui ha una personalità di primo piano». «Proprio il deposito delle calosce. Io abito in questa casa dal 1903 ed ecco che fino al marzo del 1917 non si era mai verificato un unico caso, e sottolineo a penna rossa un unico caso, in cui dall'ingresso principale giù da basso, con la porta comune aperta, fosse scomparso anche un solo paio di calosce. La prego di notare che qui ci sono 12 appartamenti e che io ricevo in casa. Nel marzo del 17, in una magnifica giornata, sono scomparse tutte le calosce, tra le quali due mie paia, tre bastoni, il cappotto e il samovar dell'usciere. E da quel momento il deposito delle calosce ha cessato di esistere, mio caro. Per non parlare del riscaldamento a vapore. Non ne parlo, visto che si tratta di una rivoluzione sociale. Non c'è più bisogno di riscaldare. Quindi mi chiedo, com'è che quando è cominciata tutta questa storia tutti si sono messi a salire su per la scala di marmo con le calosce e gli stivali sporchi? Com'è che da allora è necessario tenere le calosce sotto chiave e metterci persino una sentinella perché qualcuno non se le porti via? Perché hanno tolto il tappeto dalla scala principale? Forse che Karl Marx proibisce di tenere tappeti sulle scale? Karl Marx afferma forse da qualche parte che il secondo portone di casa Kalabukov che dà sulla Prechistenska debba essere chiuso con delle assi e che si debba fare tutto il giro e passare per l'ingresso di servizio? A chi serve una cosa del genere? Ai negri oppressi? O agli operai portoghesi? Perché il proletariato non può lasciare le sue calosce da basso e deve invece sporcare il marmo? Ma il proletario, Filip Filippovic, le calosce non ce l'ha nemmeno, s'ingarbugliò l'azzannato. Manco per sogno, rispose Filip Filippovic con voce di tuono e si versò un bicchiere di vino. Non ammetto i liquori dopo i pasti. Appesantiscono e hanno un influsso negativo sul fegato. Manco per sogno. Le calosce adesso le ha. E quelle calosce sono mie. Si tratta proprio di quelle stesse calosce scomparse nella primavera del 1917. ma che almeno se le levassero per salire le scale. Filippa Filippovich cominciò a imporporarsi. Perché diavolo sono stati tolti i fiori dai pianerottoli? Perché l'elettricità, che se Dio mi concede una buona memoria, nel corso di 20 anni è venuta meno 2 volte, attualmente si spegne esattamente 1 volta al mese. Dottor Bormental, la statistica è una cosa senza pietà. Lei che ha conoscenza del mio ultimo lavoro lo sa meglio di chiunque altro. È lo sfacelo economico, Filippa Filippovich. No, replicò Filippa Filippovich con assoluta convinzione. No. Lei per primo, caro Ivan Arnoldovich, si astenga dall'utilizzare queste parole. È un miraggio, fumo negli occhi, finzione. Filippa Filippovich allargò le dita corte di modo che 2 ombre simili a 2 tartarughe presero ad agitarsi sulla tovaglia. Che cos'è questo suo sfacelo economico? Una vecchia con la gruccia? Una strega che ha spaccato tutti i vetri, che ha spento tutte le lampade? Ma quella non esiste nemmeno. Che cosa intende con queste parole? Domandò Filippa Filippovich con rabbia a una disgraziata anatra di carta pressata appesa zampe in su accanto alla credenza e si rispose da solo. Ecco cos'è. Se io invece di operare cominciassi ogni sera a cantare in coro in casa mia, ci sarebbe lo sfacelo economico. Se io, andando al gabinetto, cominciassi, mi scusi per l'espressione, a pisciare fuori dalla tazza, e Zina e Daria Petrovna facessero lo stesso, in gabinetto ci sarebbe lo sfacelo. Ne consegue che lo sfacelo economico non è nei water, ma nelle teste. Significa che quando questi baritoni gridano «Abbasso lo sfacelo economico!», io rido. Il volto di Filippa Filippovich si contorse in modo tale che l'azzannato spalancò la bocca. Glielo giuro, mi viene da ridere. Sta a indicare che ciascuno di loro deve suonarsele da solo sul coppino. E quando a furia di botte si sarà liberato dalla rivoluzione mondiale, da Engels e da Nikolai Romanov, dai malesi oppressi e da altre simili allucinazioni, e si sarà messo a ripulire il suo tugurio, a fare cioè il suo dovere, lo sfacelo economico se ne scomparirà da solo. Non si possono servire 2 divinità. È impossibile spazzare le rotaie del tram e al tempo stesso riassestare le sorti di certi straccioni spagnoli. Non ci riuscirà nessuno, dottore, e tantomeno delle persone che in generale sono state lasciate indietro di 200 anni dallo sviluppo europeo e che ancora oggi non hanno imparato ad abbottonarsi i pantaloni come si deve. Filippa Filippovich perse le staffe. Le narici da sparviero si dilatarono. Rinvigorito dopo un pasto abbondante, tuonava come un antico profeta e la sua testa riluceva d'argento. Le sue parole cadevano sul cane addormentato come un sordo rombo sotterraneo. Ora era la civetta con gli stupidi occhi gialli che faceva irruzione con un balzo nella sua visione onirica, ora era la volta del muso turpe di un boia con un lurido cappello a cono bianco, ora del baffo spavaldo di Filippa Filippovich illuminato dalla luce viva dell'abat-jour. Ora slitte sonnolenti scricchiolavano e scomparivano, e nel ventre canino, galleggiando nei succhi gastrici, veniva digerito il pezzo sbranato di roast beef. Potrebbe tranquillamente guadagnar soldi parlando ai comizi, sognava confusamente il cane. È un ruffiano di prima categoria. D'altronde si vede bene che anche così di soldi ne ha a palate. Guardia! Gridava Filippa Filippovich. Guardia! Certe bolle scoppiavano nel cervello del cane. Guardia! Questo soltanto. E non ha assolutamente importanza che abbia un distintivo o il berretto rosso. Piazzare una guardia accanto a ogni persona e costringere questa guardia a limitare le emissioni vocali dei nostri cittadini. Lei dice che è lo sfacelo economico. Io le dico, dottore, che nulla volgerà al meglio nella nostra casa e in qualsiasi altra casa fino a quando non saranno stati repressi questi cantori. Basterà solo che la smettano con i loro concerti e la situazione di per sé volgerà al meglio. Sta dicendo delle cose controrivoluzionarie, Filippa Filippovich, osservò scherzosamente l'azzannato. Voglia Iddio che nessuno la stia ascoltando. Nessun pericolo, ribatté con foga Filippa Filippovic. Nessuna controrivoluzione. A proposito, ecco un'altra parola che davvero non sopporto. È assolutamente ignoto che cosa vi si nasconda. Lo sa il diavolo. Così posso affermare che nelle mie parole non c'è nulla che abbia a che fare con la controrivoluzione. In esse sono contenuti soltanto buon senso ed esperienza della vita. A questo punto Filippa Filippovic tirò fuori dal colletto il lembo del lucente tovagliolo messo di traverso e, dopo averlo appallottolato, lo depose accanto al bicchiere di vino ancora pieno. Il morsicato subito si alzò in piedi e ringraziò. «Merci». «Un momento, dottore», lo trattenne Filippa Filippovic estraendo il portafoglio da una tasca dei pantaloni. Socchiuse gli occhi, contò le bianche banconote e le porse al morsicato con le parole: «Oggi Ivan Arnoldovich le spettano 40 rubli. Prego». La vittima del cane ringraziò cortesemente e, arrossendosi, ficcò i soldi nella tasca della giacca. «Le servo questa sera, Filippa Filippovic?» si informò. «No, la ringrazio, mio caro. Oggi non si farà niente. Primo, il coniglio è crepato. E secondo, oggi al Bolshoi daranno la Ida. Ed è da tanto tempo che non la sento. La adoro. Ricorda il duetto? Tararararin, tararin». «Ma dove trova il tempo, Filippa Filippovic?» domandò il medico pieno di rispetto. «Trova il tempo di far tutto chi non ha fretta ad andare da nessuna parte», spiegò il padrone di casa con fare edificante. «Certo, se cominciassi a saltare da una riunione all'altra e me ne stessi a cantare tutto il giorno come un usignolo invece di occuparmi degli affari miei, non farei in tempo ad andare da nessuna parte». In tasca sotto le dita di Filippa Filippovic cominciò il suono celestiale dell'orologio a ripetizione. «Le 8 passate, andrò per il secondo atto. Sono un fautore della divisione del lavoro. Che cantino al Bolshoi e io opererò. Così le cose vanno bene e non c'è nessuno sfacelo economico. Mi ascolti, Ivan Arnoldovich. Continui a sorvegliare la situazione con attenzione. Appena si verificherà una morte adatta, subito via dal tavolo operatorio, nel liquido fisiologico e poi dritto da me». «Non si preoccupi, Filippa Filippovic. Gli anatomopatologi me l'hanno promesso». «Perfetto. E intanto noi teniamo sotto osservazione questo isterico di strada. Lo laviamo, lasciamo che il fianco si cicatrizzi». «Si preoccupa per me», pensò il cane. «È un uomo molto buono. Io so chi è. È l'incantatore, il mago e il negromante della favola canina. D'altronde non è mica possibile che mi sia sognato tutto». «E se invece fosse un sogno?» nel sonno il cane sussultò. «E se mi svegliassi e non ci fosse nulla, né la lampada col paralume di seta, né il tepore, né la pancia piena? Di nuovo il portone, il freddo che ti fa impazzire, l'asfalto gelato, la fame, la gente cattiva, la mensa, la neve. Dio, come sarebbe duro!» Ma non accadde nulla di tutto ciò. Fu proprio il portone a dileguarsi come un brutto sogno e a non fare più ritorno.